Intanto quando succedono queste cose si dice sempre se ne vanno i migliori, ma questa volta è proprio vero. Se n'è andato un grande dirigente della RAI, un grande uomo creativo, ha inventato la TV moderna. Io ho un grande rammarico che non ci siamo mai incrociati da un punto di vista professionale, perché quando lui era a Rai 3 io ero a Rai 1, ma siamo stati amici e lui mi è stato molto molto vicino quando, dopo l'Edito Bulgaro, quando c'è stato il mio momento difficile con l'azienda, quando mi volevano licenziare, eccetera. Di Angelo ho un ricordo bellissimo, un carattere fortissimo, mai domo e mai disponibile ai compromessi, e questa è stata anche la sua forza per poter fare la televisione che ha fatto, che è stato per noi, soprattutto per quelli della mia generazione, proprio un grande faro, una guida per la nostra televisione. Ha lanciato programmi che poi hanno fatto appunto anche la storia, Un giorno in pretura, la TV delle ragazze, Blob, insomma un'idea nuova di televisione per l'epoca. Quelli che il calcio, pensa Gad Lerner, pensa Santoro, pensa l'approfondimento, pensa i programmi dopo il telegiornale fatti insieme a Ferrara, cioè ha veramente completamente rinnovato la televisione e l'informazione in televisione, attenzione, ecco, perché lui ha fatto anche questo. Non è stato molto amato dalla politica, la politica dovrebbe chiedergli scusa, almeno in questo momento, perché io non dimenticherò mai quando incontrai Angelo Guglielmi in via Teulada, il cosiddetto cimitero degli elefanti, quando la Moratti lo mise da una parte. Una vera vergogna. Perché non era amato? Era troppo indipendente? Assolutamente sì. Cioè lui viveva con la sua squadra, era uno di quei dirigenti che sapeva far squadra e sapeva valorizzare i suoi collaboratori. Questa era la forza di Angelo Guglielmi. Entrava in prima persona di fronte a tutto quando c'erano i casini, quando c'erano le cose che non funzionavano, quando c'erano le critiche, altrimenti lui era uno dietro le quinte, al di là del fatto che Angelo Guglielmi è stato un grandissimo intellettuale, non ci dimentichiamo che è stato allievo di Anceschi, ha fatto parte del gruppo 63, cioè quella generazione che entrò all'inizio della televisione, che c'era tanti altri, insieme a Furio Colombo, penso a Umberto Eco. Cioè, pensa che cos'era quella televisione degli inizi degli anni 50. Cioè, ha creato la TV Angelo Guglielmi. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda il presente. Quanto c'è nella TV di oggi di quell'approccio e quanto invece è stato abbandonato? Beh, di quell'approccio c'è tanto, perché ancora alcuni suoi programmi stanno andando in onda. L'abbandono è stato totale, perché la politica ci ha messo i propri conduttori, messo persone anche soprattutto incapaci. C'è stata una stagione in Rai che era la stagione di Angelo Guglielmi, era la stagione di altri importanti dirigenti di Rai 1, eccetera, era la stagione dei grandi direttori. Poi c'è stata la stagione dei pessimi direttori, che io ho scritto tante volte che con me non avrebbero fatto neanche l'assistente ai programmi.